ne fa le veci nelle pecore. Un popolo di remore infedeli allo squalo che lo Stato. Un popolo che deve ancora chiudere i conti aperti con il proprio passato. Forse sarò ingrato, ma la gratitudine qui c'entra come la democrazia con l'invadere uno Stato. Piccole persone peggio delle piattole, volete rompere le scatole anche quando caldo e sudo. Per il vostro pudore finto rischio di essere multato quando arroventato d'estate giro a petto nudo. Sarebbe da prendere tutte le vostre stronzate e unirle. Sarebbe meglio prendervi le labbra e cucirle. Ma cosa vuoi aver capito? Cosa? Cosa c'è da capire? Gli equilibri spezzati sono da ristabilire. Basta! Non soffocatemi con certi discorsi, mi sento stretto in una borsa. Un lungo balzo avanti oltre la forza, lo fai se arretri e prendi la rincorsa. Basta! Non soffocatemi con certi discorsi, mi sento stretto in una morsa. Un lungo balzo avanti oltre la fossa, lo fai se arretri e prendi la rincorsa. È che se eravamo tipo in Olanda, stora mia madre sarebbe insegnante d'arte. Ma queste cose a parte, qui è pieno di persone alienate, contaminate dal provincialismo che distingue ste contrade e l'ignoranza che ne pervade le strade. Poi l'indifferenza fra chi vive fianco a fianco in metropoli sovrappopolate, la scarsità di mezzi per chi vuole opporsi e la mediocre ripetitività nei discorsi. E non mi esimo in toto da sto fallace modo d'essere, potrei essere me stesso, ma ho smesso di riflettere usando la mia testa come strumento e basta. Faccio parte di una casta e questo mi devasta. Sono un iconoclasta e un ribelle, ho i nervi a fior di pelle e ho perso quasi tutte le rotelle. Ho una mente ed un corpo che sono strumenti della coscienza che porto. Sono uno spirito, la mia anima col soprabito. Io sono la coscienza, la mente ed il corpo che abito. Corpo, mente, emozioni, energie vitali. Non sono io quello pazzo, ma gli altri troppo normali. Corpo, mente, emozioni, energie vitali. Non sono io quello pazzo, ma gli altri quelli normali. Basta, non soffocatemi con certi discorsi, mi sento stretto in una morsa. Un lungo balzo avanti oltre la fossa, lo fai solo arretrando e prendendo la rincorsa. Basta, non soffocatemi con certi discorsi, mi sento stretto in una morsa. Un lungo balzo avanti oltre la fossa, lo fai solo arretrando e prendendo la rincorsa. Basta.